30 minuti in cronaca di Gigi Donelli. Letizia Moratti o Giuliano Pisapia alla guida della città di Milano? Lo sapremo tra poche ore, ma chiunque vinca dovrà gestire, tra l'altro, decine di miliardi per l'Expo 2015 e prendere perciò molto sul serio i rischi di infiltrazioni mafiose nei grandi lavori ad essa collegati. Contro questi rischi non serve Superman, serve che il sindaco, le imprese, i sindacati, la magistratura formino una rete fitta e coesa che protegga l'economia sana. È quella che un grande esperto, il procuratore aggiunto di Reggio Calabria, definisce l'antimafia sociale, quella in cui ognuno silenziosamente, quotidianamente, fa fino in fondo il proprio dovere di cittadino, di amministratore, di imprenditore, di operaio. Ancora buonasera da Gigi Donelli, benvenuti all'appuntamento con 30 minuti in cronaca. Dunque questa sera parliamo anche di Milano, naturalmente con una chiave particolare, una chiave che porta in qualche modo avanti le lancette dell'orologio rispetto a queste ore di confronto elettorale per le amministrative. Chiunque esca vincitore da questa sfida avrà un grosso problema da affrontare, ed è quello di un progetto che naturalmente appassiona i milanesi non solo, ma che ha delle grandi implicazioni e molti pericoli. Ne parliamo questa sera con Michele Prestipino, procuratore aggiunto di Reggio Calabria. Buonasera, grazie di essere con noi. Buonasera. E con Lionello Mancini, inviato del Sole 24 Ore, in studio. Ciao Lionello. Buonasera. Dottor Prestipino, innanzitutto, quando parla di antimafia sociale, a cosa si riferisce? Ma io mi riferisco ovviamente a quella rete, a quel tessuto connettivo che deve mettere insieme, che deve stringere, che deve collegare tutti i protagonisti dell'azione di contrasto alla criminalità organizzata, alla mafia siciliana, all'andrangheta, che in questo momento ha una capacità pervasiva, invasiva evidentissima. Dico che quando ci troviamo di fronte a queste organizzazioni è necessario opporre la forza organizzata dello Stato e quindi di tutti i compartimenti dello Stato. Questa secondo me è l'antimafia sociale, che taglia in modo verticale e in modo orizzontale tutta la società. Siamo in un paese che spesso cerca eroi, magari quando è troppo tardi, quando appunto gli eroi poi sono diventati vittime, e di questo torniamo a parlare. Lionello Mancini, però vorrei chiederti una cosa prima. Hai detto, hai scritto in un recente articolo che indicare l'andrangheta come un problema del territorio calabrese, dici, non è frutto di scarsa informazione, è malafede. Perché? Beh sì, ormai è malafede perché se è vero che negli anni scorsi le mafie si identificavano con un territorio, e qui in Lombardia per esempio, comunque nel nord, non accadeva nulla che potesse indicare questo fenomeno, beh ormai non è più possibile far finta che questo problema non esista. Il che significa due cose. Allora, il fenomeno che dicevo inedito giudiziario è questo asse fortissimo tra Milano e Reggio Calabria. Reggio Calabria, cioè, non a caso abbiamo oggi qui Michele Prestipino, perché Reggio Calabria, comunque sì, l'andrangheta nasce su quel territorio, ma le inchieste stanno scoprendo, inchieste dico, le intercettazioni, le persone, i testimoni, sono la dimostrazione che questo fenomeno sotterraneamente andava avanti e va avanti da tanti anni e non era mai emerso. Tutti facevano finta di niente, questo è il termine esatto. Perché? Perché c'è una convenienza economica fortissima. Infatti, se io posso porre anch'io una domanda al dottor Prestipino, io proprio vorrei sapere questo. Anche questo è qualcosa che accenno in quell'articolo a cui ti riferivi. Cioè, perché nel Mezzogiorno, cioè diciamo meglio in Calabria, l'andrangheta è così interessata al voto di scambio, cioè a conquistare le amministrazioni, e perché invece qui a Milano al nord il suo referente più diretto, il punto di impatto è il sistema economico? Ma, io credo che noi dobbiamo partire da un dato di fatto, che non è un dato di fatto nuovo. La presenza dell'andrangheta nel nord Italia risale ormai a molti anni, non è un evento recente. Più di recente è stato messo in evidenza dalle nostre indagini, da questa attività investigativa che noi abbiamo condotto in collaborazione e in strettissimo coordinamento con la Direzione Distrettuale Antimafia di Milano. La presenza dell'andrangheta risalente nel tempo significa che l'andrangheta dove ha investito i propri denari, i propri capitali illeciti, ha avuto il tempo, la possibilità di stabilizzare le proprie strutture. Ecco, io credo che questo sia importante comprendere, la differenza tra presenza, infiltrazione e presenza stabilizzata. La presenza stabilizzata significa che in un territorio diverso dalla Calabria, in particolare dalla provincia di Reggio Calabria, l'andrangheta ripropone il proprio modello sociale, il proprio modulo operativo, ripropone il metodo mafioso, insieme al metodo mafioso ripropone il sistema relazionale, ripropone la stipulazione dei patti criminali. In Calabria rafforza il proprio potere avvalendosi e cercando il consenso tra le popolazioni residenti sui territori dove essa esercita il proprio potere criminale, nel nord cerca di riproporre questo modello ovviamente investendo i propri capitali. Io credo che sia questo il punto centrale. Oggi noi registriamo campanelli di allarme molto più frequenti che nel passato e soprattutto molto più qualificati e vorrei dire assolutamente puntuali su qual è la natura del pericolo. Quando il governatore della Banca d'Italia due mesi fa a Milano ha lanciato il suo allarme, ha detto con estrema chiarezza che la presenza criminale non è soltanto un fattore di inquinamento del mercato, ma è un fattore che costituisce uno dei freni che rallentano il cammino della nostra economia, non dell'economia meridionale, di tutta la nostra economia. Ecco, io credo che occorra ripartire da qui e comprendere che quel meccanismo cui faceva riferimento Leonello Mancini, che caratterizza la presenza criminale in Calabria, può e sarà senz'altro ed è già riproposto nel nord attraverso quel fenomeno che noi chiamiamo della clonazione della cellula criminale. Tutto questo avviene anche perché le forme mafiose assumono una presentabilità, un volto che si adatta all'ambiente che di fatto vanno a colonizzare. Ecco, nel nord, tanto per essere chiari, non parliamo di famiglie divisibili, di coppole, di armi. Quello che viene raccontato dai protagonisti, da chi per esempio è attualmente imputato nell'ambito di processi come Bad Boys, un processo appunto che riguarda strettamente queste vicende, racconta e risponde alla domanda come si finisce in questo tipo di relazione. Lui dice: mica si presentano con la pistola, in giacca e cravatta, con aziende pulite, con vere realtà operative, incensurati, con tanto di certificazione antimafia. Chi hai davanti sul serio lo capisci solo più tardi. Sì, questo è senz'altro un aspetto della verità e in questo sta il vero pericolo della presenza stabilizzata dell'andrangheta, cioè nel fatto che essa su un territorio che non è quello suo di origine può riproporre il modello operativo, può riproporre il modello sociale che è fatto di tutte e due le cose, cioè del metodo mafioso e quindi del Kalashnikov e del volto pulito, del colletto bianco, perché quando l'andrangheta clona le sue cellule criminali, clona anche il suo sistema relazionale e il sistema relazionale è quel sistema che lo mette in contatto attraverso tramiti dal volto presentabile con gli operatori economici, con i protagonisti economici. Spesso i singoli protagonisti, soprattutto nel passato, non hanno avuto la capacità, la possibilità, gli strumenti, le conoscenze per riconoscere in chi gli si presentava un emissario del sistema criminale, un emissario dell'andrangheta. Però questa lacuna conoscitiva, questo bagaglio informativo, questa rete di conoscenze oggi è diversa ed è affidata, ed è questo l'elemento che deve costituire la novità in questa rete di contrasto, ed è costituita dalla presenza organizzata e dall'attivismo, dal protagonismo delle associazioni di categoria, perché quello che può non conoscere il singolo soggetto a livello individuale lo conosce senz'altro la sua categoria, la sua associazione. Il gruppo. 30 minuti in cronaca. Dottor Prestipino, vorrei farle una domanda. I suoi colleghi milanesi, quelli con cui operate quotidianamente, con cui ogni tanto vi riunite per decidere la linea di azione, le cose da fare, si lamentano anche pubblicamente, anche ricorrendo ai media, della scarsissima collaborazione del sistema economico su questi temi. Vista da Reggio Calabria, la società lombarda, la comunità economica lombarda, di nuovo del nord, diciamo così, è secondo lei e per la sua esperienza una comunità impaurita o una comunità che nonostante tutto continua a fare business? Ma è difficile rispondere, come dire, e tagliare in due la torta e stabilire delle percentuali. Secondo l'esperienza direi che c'è un po' di tutto questo, nel senso che quando un'organizzazione come l''Ndrangheta riesce a infiltrare un tessuto economico che originariamente è un tessuto sano, fatto di imprese vere, ovviamente c'è un po' di tutto, c'è, come dicevo prima, l'utilizzo del metodo mafioso, perché chi si presenta pur senza dirlo ma allude a chi gli sta dietro, ma c'è anche la tentazione di stipulare, di conquistare i vantaggi del patto criminale di convenienza. Questo lo dicono gli stessi imprenditori, lo riconoscono gli stessi imprenditori, che nel passato c'è stato anche questo. Oggi noi dobbiamo, come dire, contrastare questa situazione agendo su entrambe le direzioni, cioè quindi da un lato attraverso la repressione, quindi attraverso l'azione di contrasto, diciamo, sulle strutture organizzative, militari, operative dell''Ndrangheta, questo è il senso di operazioni che noi stiamo facendo in strettissimo coordinamento con la DDA di Milano. D'altro canto, ovviamente, bisogna rendere non più stipulabile, non più conveniente, concludere il patto di convenienza. Se si rende non più conveniente per l'operatore economico la stipulazione di quel patto, la si rende molto difficoltosa, molto rischiosa, probabilmente saranno sempre meno quelli che cederanno all'attrazione fatale dell'abbraccio con la criminalità organizzata. Ecco, dottor Prestipino, prima di chiederle come arrivare a questo, vorrei chiederle un maggiore dettaglio su questo patto di convenienza. Che cosa significa? Significa accedere al credito fondamentalmente in un periodo di crisi? Ma il patto di convenienza, vede, le sembrerà paradossale, ma l'esperienza giudiziaria ci dice che il patto di convenienza ha un momento genetico comune, e lo ha sia in Sicilia che in Calabria. E sa qual è? È il momento in cui l'imprenditore viene avvicinato per essere sottoposto al pagamento del pizzo, cioè della tangente per i lavori che sta eseguendo. Quello che è un momento in cui l'imprenditore assume la veste di vittima, cioè di estorto, quindi di persona sottoposta alla pressione mafiosa che lo priva di una fetta del suo reddito, e quindi esercita una forma di prelievo forzoso sul suo reddito, quello diventa l'occasione per offrire il prodotto. In quell'occasione la mafia offre il prodotto, propone all'imprenditore di entrare in un sistema in cui l'imprenditore può fruire dei vantaggi del metodo mafioso, quindi, come dire, eludendo le regole della concorrenza, eludendo i problemi connessi al ricorso al credito, connessi al contatto con la burocrazia e la pubblica amministrazione, perché il metodo mafioso agisce anche su questi soggetti, e quindi lavorare sotto l'ombrello protettivo della mafia per ottenere vantaggi che altrimenti non sono conseguibili, pagando ovviamente la tangente per i lavori che vengono eseguiti. Questo patto, che poi si sviluppa sviluppa nel tempo, si alimenta e presenta varie sfaccettature, perché nel momento di crisi economica l'imprenditore che non ha difficoltà, per esempio, al ricorso al credito, attraverso l'ombrello protettivo dell'organizzazione mafiosa ha i soggetti finanziatori. La seconda domanda riguarda proprio una notizia di ieri, dove leggo che nel processo infinito qui a Milano una società municipalizzata si è costituita parte civile. Guardi, la costituzione di parte civile nei processi di mafia è un fatto di straordinaria importanza ed ha una valenza simbolico, strategica fortissima. Io le posso raccontare la mia esperienza. In un processo dove erano imputati a Palermo i capi, alcuni capi di Cosa Nostra, imputati di estorsioni nei confronti di diverse imprese, la costituzione di parte civile di tutte le associazioni di categoria ha determinato un andamento del dibattimento, uno svolgimento del processo che ha evitato la esposizione al rischio di tutti quegli imprenditori, ed erano diversi, che nel corso delle indagini avevano reso dichiarazioni. Attraverso la costituzione di parte civile l'associazione assume in proprio il rischio della presenza e l'esposizione al rischio della presenza del singolo imprenditore nel processo. L'interesse di quell'imprenditore, la presenza di quell'imprenditore diventa fatto proprio di tutti. Ecco, dottor Prestipino, è partito dalle associazioni, le ha citate sotto traccia, torniamo. E allora la domanda che abbiamo lasciato in sospeso: come si rompe il patto di convenienza? Io credo che noi lavoriamo e ragioniamo con i protagonisti dell'economia, con operatori economici. Io dico sempre, forse come dire, banalizzando un po', l'operatore economico è un operatore che al 31 dicembre deve mettere a raffronto attività e passività. Se le une superano le altre può andare avanti, ma se le passività superano le attività ha dei problemi. Rompere il patto di convenienza significa che noi dobbiamo costruire un sistema che pone in termini di non convenienza la stipulazione del patto, e quindi bisogna creare dei meccanismi sia di inibizione rispetto a chi stipula il patto e quindi delle sanzioni, ma anche dei meccanismi di tipo premiale per chi sceglie di non stipulare il patto e per chi, diciamo così, tra virgolette, si comporta bene sul mercato. Sono due cose che devono operare contemporaneamente e delle quali ovviamente non si può fare carico l'apparato repressivo, ma si devono fare carico le associazioni di categoria, al cui interno devono avere la forza, non soltanto, cosa che ormai è estremamente diffusa, di fare la scelta di imporre delle regole deontologiche per mantenere l'appartenenza alla categoria, ma devono anche trovare la capacità, la forza di mettere in concreto, in pratica, di applicare queste regole e di farle diventare operative, cosa che anche questa che si sta iniziando a fare e che sta producendo dei risultati. Grazie a Michele Prestipino, lo ricordo, procuratore aggiunto di Reggio Calabria. Lionello, una battuta in conclusione? Ma io veramente ho poco da aggiungere, mi sembra che sia stata una puntualizzazione, cioè in questa trasmissione sia venuta una puntualizzazione molto chiara di quello che ci aspetta come società civile. Non è pensabile affidare l'incarico di contrastare l'andrangheta a qualcun altro, ognuno deve fare il suo pezzo. Grazie a Lionello Mancini, naturalmente a Michele Prestipino, procuratore aggiunto di Reggio Calabria, a Valeria Bernardi questa sera in regia. Vi ricordo solo www.radio24.it per sentire e risentire questa e tutte le nostre trasmissioni. Buon fine settimana a tutti.